Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Amici per la pelle. Far accapponare la pelle. Avere i nervi a fior di pelle. Rischiare la pelle. Non stare più nella pelle. E io aggiungo, è una questione di pelle. Pensiamo al colore, al rosso, ad esempio, se preferite il bianco, ai segni, rughe, macchie, nei, alle sensazioni, il caldo, il freddo, il dolore, anche il prurito, che al dolore assomiglia un po'. Oggi parleremo di tutto quello che la pelle ci racconta. Racconta di noi, delle nostre emozioni, dei nostri stati d'animo, anche di quelli a cui non vogliamo prestare attenzione, dare voce o ascolto, ma parleremo anche di quello che la pelle dice agli altri. È la nostra superficie, la pelle è l'involucro, lo scudo con il quale ci presentiamo al mondo, racconta dove viviamo, il lavoro che facciamo e soprattutto se stiamo bene, nel fisico e nella mente. Volete parlarne con noi? 800 24 00 24. La puntata di oggi vuole essere un'occasione per imparare a prenderci cura della nostra pelle, dedicandole le attenzioni e le cure di cui ha bisogno, ma oggi avremo modo di approfondire il legame che esiste tra la pelle e le nostre emozioni, un legame molto stretto e particolare. Saluto subito il professor Alberto Comazzi, neuropsichiatra e membro della Società Psicanalitica Italiana. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, sacco, contenitore, confine, la pelle è questo ma anche molto altro. Ci contiene, ci protegge, ci separa? Farei anche un'aggiunta importante. Certo. Fa vedere quello che spesso non vogliamo vedere o non vogliamo sapere. Ad esempio, professore? Ad esempio, quando noi arrossiamo, si dice, è timido questa persona che arrossisce. Non è affatto vero che è timida, è che ha paura di farsi vedere per certi aspetti che il rossore deve coprire. E quindi questo è uno degli aspetti. E poi molti disturbi che il professor Gelmetti poi vi chiarirà a livello dermatologico affiorano, si dice, sulla pelle, perché dentro di noi c'è qualche cosa che noi non vogliamo tenere in considerazione. Questo è importante nei disturbi psicosomatici della pelle, e la pelle va per conto suo e ce li fa vedere e ce li fa anche soffrire, perché poi i disturbi della pelle, come voi tutti sapete, sono spesso anche dolorosi, oltre che difficilmente esprimibili e visibili, no? 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. Sappiamo da tempo che alcune malattie della pelle si manifestano, si riacutizzano nei periodi di forte stress. In linea con noi abbiamo il professor Carlo Gelmetti, che è tornato a trovarci, direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, lo stress lascia segni anche sulla pelle? Purtroppo, per fortuna, sì. Purtroppo, nel senso che la cosa è frequente. Per fortuna, perché in un certo senso, sapendo leggere la pelle, si possono vedere delle situazioni di disagio molto prima che queste vengano verbalizzate. E quindi questo può aiutare, mentre per quanto riguarda la medicina interna, evidentemente certe volte il paziente arriva dal medico quando è un po' troppo tardi. Quindi la pelle, da questo punto di vista, è un po' ambivalente, ci fa vedere tutto e quindi è un campanello che non deve essere preso sotto gamba, diciamo. Allora, ci aiuta a guardare con un occhio, non direi solo clinico, proprio attento, clinico a 360 gradi la nostra pelle? Quali sono i segnali che la nostra pelle ci manda e che ci fanno capire qualche cosa di noi, della nostra salute, direi fisica e psichica? C'è una cosa che lei aveva citato all'inizio sul colore. Sì. In realtà il colore della pelle, indipendentemente dalla nostra radice etnica, certo, evidentemente, è qualcosa che funziona da cartina di tornasole. E quindi se un arrossamento anche banale, anche trascurabile di per sé, non è giustificato, ovviamente se uno si è scottato la cosa è banale, vuol dire che qualcosa non funziona. E devo dire che gli antichi greci non consideravano l'esistenza delle malattie della pelle in senso autonomo, ma consideravano semplicemente, in questo senso avevano una parte di ragione, chiaramente non tutta, ma consideravano la pelle come uno schermo cinematografico su cui il nostro corpo, il nostro io, il nostro corpo e il nostro corpo in senso lato, quindi anche il nostro spirito, proiettava, diciamo, quelle che erano i disequilibri dell'interno. Quindi questa roba qui ovviamente è solamente in parte vera, perché uno può avere una lesione cutanea banale, come dicevo prima, una scottatura, e quindi in questo caso le nostre emozioni c'entrano poco, ma per quanto riguarda molte altre patologie è assolutamente vero. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti mai, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. La pelle è uno specchio, uno scudo, un foglio su cui giorno dopo giorno scriviamo la nostra vita, come mi scrive Alessandra. Parliamone oggi in questa puntata in cui vi invito a raccontare bellezza e imperfezione di questo abito in cui viviamo a stretto contatto per tutta la vita, che cresce e si modifica con noi. Professor Gelmetti, ma se la salute della pelle è influenzata, se così possiamo dire, dalle condizioni psicologiche, quindi da quello che si muove dentro di noi, è anche vero che la pelle deve fare i conti con le aggressioni, tra virgolette, che arrivano dall'esterno. Non a caso tra le sue varie funzioni svolge anche quella di barriera, no? Che però a volte ne paga le conseguenze. Penso ad esempio alle allergie da contatto, che sono in aumento. Sì, bisogna dire che le allergie da contatto sono senz'altro in aumento, però la cosa interessante degli ultimissimi mesi, diciamo, sono degli studi che dimostrano che particelle molto piccole, quindi molto più piccole di quelle che si misurano, il PM5, il PM2,5, il PM10, che si misurano per calcolare, diciamo, l'inquinamento dell'aria, sono in realtà molto negative per la pelle, quindi diciamo che sono delle circostanze che sono dei promoter, cioè favoriscono, inducono la comparsa poi di quelle che sono le allergie, perché altrimenti non si spiegherebbe un aumento così importante. E l'altra cosa è probabilmente, soprattutto in alcuni ambienti, l'utilizzo esagerato di detergenti, detersivi, di profumi, i quali non fanno altro che indebolire le difese biochimiche e le difese meccaniche della pelle, tant'è vero che presso alcuni gruppi di popolazioni che per vari motivi possono avere poco accesso, diciamo, all'acqua, paradossalmente alcune patologie della pelle sono molto rare. Professor Comazzi, c'è una lettura psicosomatica anche di questi disturbi? Lettura psicosomatica è legata al fatto che, come tutti i disturbi psicosomatici, bisogna andare a leggerli su due versanti, sì, il versante psichico e il versante somatico. Oggi purtroppo, e io lo ribadisco continuamente agli studenti di medicina delle scuole specialità, viene usata la parola psicosomatica in modo molto improprio, sì, no? Quando una cosa non si sa da dove, un disturbo non si sa da dove arriva, è psicosomatico, e questo oppure virale, perché sono sì, le due scappatoie che io chiamo Scilla e Caridi per i medici e per i pazienti che poi ne fanno le spese. Se è psicosomatico vuol dire che c'è una interrelazione sempre presente tra quello che succede nel corpo e quello che succede nella mente, nella nostra psiche. Per esempio la psoriasi, di cui il professor Gelmetti parlerà, credo, visto che anche questa è una malattia in diffusione attualmente, è una malattia dove sul corpo compaiono dei segni, ma se noi andiamo a segni tipici della psoriasi, noi andiamo a indagare il paziente, vediamo che questo paziente ha tutta una sua struttura di personalità con delle valenze che possono essere autoaggressive, perché la pelle, non dimentichiamo che non è solo un contenitore, ma è anche un oggetto che diventa bersaglio delle nostre aggressioni, che potremmo chiamare autoaggressioni, cioè che noi facciamo su di noi. Pensate al disturbo che noi chiamiamo la patomimia, che sono queste lesioni soprattutto sul viso che molte persone si vanno a provocare cercando il simbolico foruncolo che non c'è e che viene strizzato, e si coprono di segni che sono autoaggressivi, no? Certo. Fino a creare dei danni estetici notevoli, oltre che a rischio di infezioni. Cioè la pelle ha una sua autonomia che è interessante studiare proprio per questo versante psicosomatico, dove si vede come i due fattori si alleano contro il paziente che poi subisce e patisce la malattia. Professor Gelmetti, il professor Comazzi ha parlato di psoriasi, ma possiamo aggiungere anche la dermatite atopica, l'herpes? Ci sono già tanti ascoltatori che ci stanno chiamando al nostro numero verde per cercare di dare una spiegazione, una duplice spiegazione a quello che vedono sulla loro pelle. Ma interessante l'osservazione di Comazzi, nel senso che la psoriasi attualmente, anche dal punto di vista puramente biologico, diciamo, senza andare a scomodare, cosa che è meglio fare ovviamente, la parte psicologica, ma proprio restando la pura biologia, è considerata una malattia autoimmune, quindi è una patologia dove noi combattiamo noi stessi, e quindi questo la dice lunga sul fatto della liaison, del legame tra pelle e mente. Certamente la dermatite atopica è un altro esempio clamoroso, dove soprattutto quando il paziente non è più un lattante ma comincia a diventare un ragazzino o anche un adulto, e dove quindi la gestione del proprio corpo diventa autonoma, e quando c'è un peggioramento che non è spiegabile da condizioni ambientali, è quasi sempre una problematica personale che non vuole essere, perlomeno all'inizio, non vuole essere rivelata per quanto è, e quindi in questo caso è compito del medico di cercare di tirar fuori quello che è il problema, perché sennò la terapia standard, diciamo, dermatologica diventa veramente limitata e limitante. Allora proviamo a guardare la nostra pelle sotto questa duplice indicazione. Intanto chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24, e noi intanto abbiamo chiamato Miriam Leone, Miss Italia e sabato domenica in onda con Mattina in Famiglia su Rai 1. Una pelle di velluto magnifica. Ciao Miriam. No, vedi? Che rapporto hai tu con la tua pelle? A noi sembra bellissima, no? Veramente una pelle da miss. Allora, buongiorno a tutti, vi ascoltavo con molto interesse, perché in realtà è proprio vero che la pelle poi parla sempre di noi. Allora, posso dire che in questo periodo la mia pelle mi rispecchia, sta bene, perché io sto bene, però ho avuto delle fasi della vita in cui magari sono stata molto stressata, che la mia pelle scriveva su di sé dei messaggi di stanchezza, di stai dormendo poco, stai lavorando troppo, eccetera. Allora leggerli vuol dire poi davvero riuscire a stare meglio, quando si possono leggere con semplicità, perché poi a volte ci sono dei misteri, non è stato il mio caso, però dei misteri in cui comunque la pelle continua a sfogare delle negatività o delle impurità. Professor Gelmetti, è un classico, no? Abbiamo magari un appuntamento importante, adesso si parla tanto di matrimoni, del matrimonio, ecco che subito arrivano i brufoli, come mai? No, il brufolo, quello dell'appuntamento, ecco. È un classico? Sì. Ecco. Sì. Professor Gelmetti, non so. Sì, diciamo che la gente usa il termine brufoli certe volte in maniera un po' estensiva, però ecco. basta pensare alla febbre del labbro, che ovviamente febbre non è, ma è un banale herpes. Però questo è l'esempio classico del fatto che una nostra preoccupazione eccessiva, magari anzi purtroppo spesso non manifestata, quindi non agita, si trasforma in una immunodepressione che fa svegliare l'herpes che stava dormendo tranquillamente senza un motivo apparente. In realtà quando c'è uno stress fisico pesante, come può essere un'infreddatura o una insolazione, è ovvio che la regione di esplosione dell'herpes la troviamo, ma anche qui se manca un motivo plausibile, non è che il motivo non ci sia, ma allora va cercato proprio al di là di quello che siano le apparenze, e quindi anche in questo caso, come nella psoriasi, come nella dermatite atopica, bisogna grattare sotto la superficie, come si dice. Miriam, descrivi la tua pelle con tre aggettivi. Allora, sicuramente mediterranea, pulita e sincera. Nel senso? penso che comunque quando sono stanca o felice la mia pelle parla di me. E poi c'è una cosa meravigliosa che io ho pensato sulla pelle mentre mi ascoltavo parlare, e che la pelle è veramente, adesso io posso parlare per metafore e concetti perché non la conosco a livello scientifico, però è la nostra metafora più bella, perché quando c'è una ferita la tua pelle poi fa sì che si rimargini. Allora, questa per me è la cosa più affascinante in assoluto della pelle, proprio della nostra pelle, e poi dalla pelle passa tutto, anche il rapporto con l'altro. Il professor Comazzi su questo sono d'accordo, vero professore? Sì, io sono d'accordo in parte. Come insegna la psicanalisi, cioè la pelle è un oggetto di piacere e di dolore, cioè noi dobbiamo sempre vederlo non solo in termini estetici, no? C'è questa corsa alla bellezza, ma l'oggetto principale che riguarda la pelle è proprio il dolore e il piacere. Nel piacere chiaramente c'è tutto l'erotismo, le carezze amorose, ma se pensate che nella struttura della personalità del bambino è fondamentale, sono fondamentali le carezze che lui riceve dalla nascita, possibilmente dalla madre, e che fanno vedere come questo contatto non è solo indispensabile alla gioia e alla felicità del bambino, ma proprio alla struttura della sua personalità. I bambini deprivati affettivamente pagano tutta la vita questa, e interviene poi lo psicanalista con le sue cure riparative, diciamo, di questa carenza fondamentale che è stato il contatto di pelle, le mani della madre, il suo seno e le carezze, e che poi prendono una loro via, un loro sviluppo. Pensiamo all'erotismo e poi pensiamo al dolore. Quanto è sensibile la pelle al dolore? Al calore, al freddo. Al calore, a tutti, ma anche al dolore. Quando si sente il dolore, è difficile che il dolore non passi poi anche a livello della nostra cute, allora in quel caso la chiamiamo cute, non più pelle, no? In termine medico. Miriam, a proposito sempre di pelle, se ti dico pelle d'oca, tu a cosa pensi? Io ho tante emozioni nella vita, però sicuramente quando ho vinto il concorso nel 2008... Quello è stato un momento in cui la pelle d'oca credo si sia vista proprio, proprio dagli schermi, via telematica. Però la subisco molto, cioè anche nei racconti, per esempio mi capita se una persona mi racconta qualcosa che mi emoziona molto o mi spaventa, provo pelle d'oca anche a non vedere l'azione, ma anche solo nel racconto, quando leggo un bel libro o quando guardo una persona che ti ama viene la pelle d'oca. Perché si dice d'oca poi? Ecco, professor Gelmetti, perché assomigliamo un po', perché ha questi grutolini un po' come l'oca spennata? Il problema della pelle d'oca è un classico esempio di come la nostra pelle parli al nostro posto quando noi non abbiamo il coraggio di verbalizzare. Pelle d'oca in realtà in termine scientifico si chiama orripilazione, orripilazione perché ogni nostro pelo è collegato a un piccolo muscolo che funziona in maniera non volontaria e che viene attivato sostanzialmente da una temperatura troppo bassa, sì, ma viene attivato soprattutto, come è noto, da un'emozione o uno spavento. La orripilazione è fondamentale in molti mammiferi, basta pensare un cane quando vede un altro dall'altra parte del marciapiede, o meglio ancora un gatto quando vuole spaventare un avversario, o che sia un altro gatto o un cane, eccetera eccetera, e ha quindi un messaggio molto forte, molto clamoroso, che va a 360 gradi. E ovviamente noi abbiamo perso un po' di peli negli ultimi 2-3 milioni di anni, per cui questo messaggio è più difficilmente leggibile da lontano, ma è leggibile perfettamente da vicino e soprattutto è leggibile da noi stessi. E quindi quando c'è una depilazione e non siamo al Polo Nord, vuol dire qualche cosa. Che non abbiamo freddo. Miriam, una persona che ti piace a pelle, di solito una persona che ha o che si muove o che ti dice? Ma lo sai che poi quello te lo svela dopo che cos'è che ti piace, no? Però la pelle non può mentire. Poi fondamentalmente hai magari delle cose in comune, vuoi dei valori, vuoi una simpatia comune, vuoi un'empatia che sicuramente principalmente scatta a pelle, cioè è il primo contatto proprio con l'umanità, è la pelle. Senti, prima di salutarci, l'ultima volta che hai riso a crepapelle? Che poi... Ieri sera ho riso tantissimo. Proprio con le lacrime? Sì, ma io devo dire che fortunatamente rido e piango tanto, proprio a pelle, sono molto sensibile. Professor Comazzi, questo fa bene? Fa bene in che senso? Fa bene ridere, no? E anche... Fa molto bene. Ecco, ridere. Poi mettiamo in moto anche i muscoli. A crepapelle no, però. A crepapelle no, perché come dice la parola. Grazie a Miriam Leone per essere stata con noi. Ma grazie a voi, non vorremmo crepare. Vi aspettiamo sabato domenica mattina con Tiberio Timperi. Grazie, Nicoletta. Grazie, saluta Tiberio. Noi andiamo a sentire i mercati, il meteo e poi di nuovo qui con le vostre telefonate. 800 24 00 24 a fior di pelle, a poco. Essere e benessere. Che cosa penserebbe se io la baciassi? Penserei che pazzo, impetuoso, magnifico, sciocco egli è. No, no. Io devo. Dopo mangiato. La tua pelle è di una tale bellezza. Oh sì, lo so, ne ho su tutto il corpo. Riprendiamo il passo, torniamo a parlare di pelle. Il grande Woody ci dà sempre una mano. In linea con noi abbiamo il professor Carlo Gelmetti e il professor Alberto Comazzi, ma ci ha raggiunto Vittoria dalla provincia di Savona. Questo è il momento delle vostre telefonate. 800 24 0024. Vittoria, buongiorno. Buongiorno. Allora, pronto? Sì, noi siamo qua. Mi sente? Allora, io ho questo problema. Sono sei mesi, che sono tormentata da un prurito, una sensazione anche di calore sotto pelle, fuoco sotto pelle e sensazione come di spilli che mi trafiggono, punture di zanzara. Non vi dico naturalmente. Infatti la sento la sua voce che è proprio provata, un po' affaticata. Sono sei mesi che all'inizio chiaramente è stato un crescendo. Meno, poi ho fatto cure antiallergici, delta cortene, Neurontin 2 mesi al dosaggio di 900 mg al tutto giorno. Tutto il corpo? Tutto il corpo, escluso il viso, perfino le piante dei piedi, il collo dei piedi, le piante delle mani, ovviamente non tutto contemporaneamente. Certo. Cioè, non so, adesso ce l'ho nelle gambe, nelle braccia e nella schiena. Sì. Poi a volte non ce l'ho nella schiena, ce l'ho nelle braccia e nei piedi. Insomma, ecco. Gira un po', professor Gelmetti. Migrante, ma ce l'ho sempre, giorno e notte. Professor, allora, professore. Il problema è di questi pruriti diffusi e cronici, vanno impostati in questo termine. Se il prurito si accompagna a una lesione cutanea spontanea, ovviamente non in trattamento, questa lesione può essere esaminata, può essere biopsiata e quindi può darci un dato utile. Se invece, come mi sembra di capire, c'è una sensazione soggettiva di prurito senza la comparsa di alcuna lesione visibile, diciamo fotografabile, tanto per usare un termine banale, allora è chiaro che le possibilità sono o che il paziente abbia un prurito scatenato per un motivo di disagio psicologico, oppure che il disagio ci sia, ma sia un disagio internistico. In questo caso evidentemente è necessario fare uno screening molto approfondito, perché ci sono purtroppo più di una malattia, alcune relativamente banali, alcune così non banali, che possono dare prurito sine materia, cioè senza che ci sia un corrispettivo cutaneo visibile. In questo caso quindi uno screening deve essere accurato e approfondito. Professor Comazzi, a proposito del rossore, lei ha detto che è un modo anche un po' di mascherarsi, potremmo definirlo come un camouflage emotivo? Le piace? Beh, la parola camouflage non mi piace tanto, perché molti non conoscono il significato di questa parola. Un trucco? Però un camuffare certe situazioni. Per il prurito invece, che lettura mi dà? Ma io ho ascoltato disagio e anche la sofferenza della paziente che ha parlato poco fa, no? E mi ha colpito perché l'associazione che mi è venuta in mente è che questa persona deve fare la pace con se stessa e con la sua pelle. Cioè, come se ci fosse tra di loro, tra i due componenti, quello esterno, cutaneo e se stessa, una incompatibile lotta che non ha tregua e si manifesta in tutto il corpo, no? Quando lei descriveva, no? Che eccetto la faccia, tutto è in questo chiave di sofferenza. Io credo che si bisogna fare la pace in certi casi col proprio corpo e con la propria pelle, perché la pelle sente, è quasi munita di un udito. Pensate come le parole possono accarezzare la pelle. È vero. Ed è importante questo, perché siccome le parole possono ferire la pelle, ma possono accarezzarla, e questo nel linguaggio amoroso lo conosciamo tutti, è incredibile come possono fare questo. E quindi quando c'è, le indagini sono essenziali, come descriveva bene Gelmetti, ma c'è anche da andare a vedere altrove, come siamo abituati noi, no? Con il nostro strumento di cercare cosa dice l'inconscio, perché bisogna in certi casi fare proprio pace. Non è semplice, tante volte, professore, non si sa da che parte cominciare. Certo, perché è lì che bisogna andare a scoprire, in fondo, dicevo prima, la mia lettura è in chiave psicanalitica, perché l'inconscio parla, ma purtroppo si cela, si nasconde ed è difficile di andare a scoprirlo, no? Come si dice. Loretta, dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo porre due domande, sì. Una in veste di mamma e l'altra personale, che mi tocca personalmente. Sì. Ovviamente do spazio prima alla veste di mamma. Io ho una ragazza di 28 anni, in questo momento è molto sotto stress e lei si sta martoriando il viso. E quindi io volevo sapere come posso aiutarle, che suggerimento le posso dare, posto che non mi ascolta, sì. Che mi ascolta poco, per evitare che si massacri così il viso, perché fondamentalmente ha una bella pelle, però lei la sera quando torna dal lavoro si chiude in bagno un'ora ed esce che è veramente straziato il viso. La seconda domanda invece che riguarda lei personalmente, Loretta? La seconda domanda è, diciamo, mi tocca personalmente perché lo vivo sulla mia pelle. Sì, è il caso di dirlo. Sì. Da qualche anno mi è stata diagnosticata la rosacea, acne rosacea. Sì. Ho preso di tutto e di più, ho seguito, diciamo, i consigli medici, ovviamente metto sempre la protezione 50 più perché è una pelle chiarissima, però periodicamente non mi dà pace, nel senso che ho delle eruzioni che mi mettono molto in imbarazzo, cioè io anche… E certo, perché la pelle poi si vede, soprattutto se hai essere interessata alla pelle del viso, e crea parecchio disagio. Lo sanno bene le persone che si confrontano con delle malattie della pelle che sono chiaramente visibili, molti ascoltatori mi stanno scrivendo del disagio psicologico che vivono proprio perché affetti, molti mi scrivono da psoriasi. Professor Gelmetti, ho voluto che Loretta raccontasse le sue due, no, ci dicesse le sue due richieste d'aiuto, perché magari, no, c'è un legame. Direi di sì, ecco. Nel senso che cominciamo dalla più semplice, la storia della figlia. È chiaro che in questo caso il dermatologo come prescrittore di farmaci o come prescrittore, peggio ancora, di sole pomate, va incontro a un chiaro fallimento. La problematica è evidentemente tutta una problematica psicologica, per cui il dermatologo può fare molto, certo, se fa il medico nell'accezione più nobile, sì. Qualcuno che si occupa del paziente in toto, non della sua carrozzeria, diciamo, della nostra pelle, quindi bisogna aprire il cofano, e entrare nel motore e vedere qual è il modo più economico per metterlo a posto. E quindi certe volte un dermatologo con una buona esperienza, un buon, diciamo, approccio clinico e una buona esperienza, diciamo, di buon medico, di buon psicologo, ce la fa. Altrimenti, se non ce la fa, vuol dire che ha bisogno di un appoggio veramente specialistico. In questo caso l'apporto di di un esperto spesso è risolutivo. Nel caso invece della rosacea bisogna dire che la rosacea è un problema a doppio taglio, nel senso che in pochi casi si evidenzia un fattore di tipo esclusivamente medico la cui risoluzione porta a scomparsa della rosacea. Faccio un esempio, donna con rosacea, viene fuori che ha anche una gastrite, si scopre l'Helicobacter pylori, si tratta l'Helicobacter pylori, si fa quella che si chiama la bonifica e la rosacea si risolve. Allora giustamente si va a fare il legame gastrite, Helicobacter, eradicazione Helicobacter, scomparsa della rosacea, eccoci arrivati. Però questi casi in realtà sono più l'eccezione che non la regola. Sì. Quindi se uno screening anche lì fatto bene, e quindi anche qui il dermatologo deve essere un medico a tutto tondo, non riesce a evidenziare un fattore internistico che possa giustificare la rosacea, è chiaro che anche qui cadiamo nel problema della figlia, dove la pelle in realtà è un mezzo di scambio per veicolare in superficie quello che noi non riusciamo a dire in altro modo. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme, tra poco. Essere e benessere è il contatto fisico. In una città vera si cammina, si sfiorano altri passanti, si sbatte contro la gente. Qui a Los Angeles non c'è contatto fisico con nessuno. Stiamo sempre dietro metallo e vetro. È il contatto fisico. Il contatto ci manca talmente che ci schiantiamo contro gli altri solo per sentirne la presenza. Vi abbiamo riproposto questo breve estratto, Crash Contatto, perché la nostra conoscenza passa attraverso il tatto, se preferite il contatto, che io voglio immaginare come una sorta di ponte che ci mette in comunicazione con il mondo che ci circonda, un mondo fatto di cose, di persone da conoscere, da esplorare, da cui ricevere emozione e nutrimento. E credo che oggi stiamo progressivamente abbandonando questa forma di conoscenza e di relazione. Credo questo non ci faccia bene. Io vorrei chiederlo anche a voi: da quanto tempo non ricevete o non date una carezza? Intanto che ci pensate, 800 24 00 24, nell'attesa delle vostre telefonate, voglio parlarvi di una ricerca che ha misurato quello che il professor Comazzi già ci anticipava, gli effetti del massaggio sui neonati. In linea con noi abbiamo la dottoressa Nicoletta Berardi, che è professore di psicobiologia all'Università di Firenze, istituto di neuroscienze del CNR di Pisa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Un'altra Nicoletta. Dottoressa, il vostro studio, siamo forti comunque, il vostro studio ha coinvolto diversi centri, voglio ricordarli perché è uno studio collaborativo, sono l'Istituto di Neuroscienze del CNR, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Stella Maris, l'Unità di Neonatologia di Pisa e l'Università di Firenze. Questo studio, questo grande studio, dimostra quello che le mamme istintivamente hanno sempre saputo, e cioè che le carezze fanno crescere e fanno crescere bene. Questo studio nasce da lavori precedenti, sempre diretti dal professor Maffei, in cui era stato esaminato l'effetto di quello che chiamiamo la ricchezza dell'ambiente sui circuiti cerebrali, sia durante lo sviluppo che nell'adulto e in modelli animali. In questo caso l'ambiente veniva arricchito in termini di oggetti con cui gli animali potevano giocare o interagire, esplorare, possibilità di compiere esercizio fisico volontario e ovviamente interazioni sociali. Quando abbiamo pensato ad arricchire l'ambiente di creaturine piccine come i neonati umani o i piccolini di ratto, abbiamo pensato proprio al contatto fisico, al massaggio, alle cure materne sostanzialmente, e quindi abbiamo arricchito l'ambiente dei neonati in maniera commisurata alla loro età, al loro stato anche di capacità di interagire. Va detto che il massaggio è spesso incluso nella cura dei neonati umani, però non c'era, prima del lavoro che abbiamo fatto, nessuna evidenza scientifica né negli animali né nell'uomo che il massaggio potesse influenzare lo sviluppo del cervello. E quello che abbiamo fatto è stato semplicemente di sottoporre a un protocollo di massaggio semplicissimo per solo 10 giorni, 3 sedute di massaggio da 15 minuti l'una, dei bambini pretermine sani ed è cuccioli di ratto per poter poi fare delle verifiche di meccanismi d'azione. E sorprendentemente nei bambini massaggiati l'attività cerebrale, che noi abbiamo valutato con l'elettroencefalogramma e anche in termini di risposta a stimoli visivi semplici, maturava più velocemente, il cervello maturava più rapidamente nei bambini massaggiati, e anche una funzione visiva, che è l'acuità visiva, quella che l'oculista ci misura con la tabella dove ci sono le lettere sempre più piccole, sì, maturava più rapidamente nei bambini massaggiati. E combinando lo studio nei bambini e nei rattini abbiamo anche dimostrato che il massaggio agisce sullo sviluppo cerebrale attraverso dei fattori specifici, in particolare un fattore di crescita che si chiama IGF-1. Quindi questo massaggiare, sì, non solo contribuisce ovviamente al legame affettivo, perché il contatto, il tatto è uno dei primi sensi che si sviluppa in utero, e quindi è una forma estremamente semplice ma potentissima di contatto fra non solo con specifici, e quindi quando noi massaggiamo i nostri bambini non solo contribuiamo a creare questo legame affettivo di cui siamo consapevoli, ma sostanzialmente promuoviamo lo sviluppo cerebrale agendo su fattori che l'organismo produce già di suo, semplicemente il massaggio ne aumenta la presenza. Quindi, dottoressa Berardi, possiamo prescrivere sedute di carezzoterapia e massaggioterapia, una tecnica che consigliamo anche non solo ai nuovi nati, credo che faccia bene a chi la pratica e a chi la riceve. Zero effetti, sì, collaterali, benessere assicurato. Sì, certamente. Il massaggio, come tutte le forme di arricchimento, contribuisce in molti modi alla salute, al benessere delle persone, anche alla salute cerebrale, lo fa in modo molto piacevole. Cosa vogliamo di più? Grazie alla dottoressa grazie Berardi, buona giornata. Buona giornata anche a lei. Grazie, abbiamo Dino che ci chiama da Bologna. Dino, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, Dino, siamo qua per lei, mi racconti. Sì, salve, senta, è successo questo. Io qualche mese fa, diciamo in pieno inverno, ho cominciato ad avere dei taglietti ai lati della bocca, sì, che ho curato con uno stick... solo che mi è venuta una dermatite allergica e la dermatologa mi ha diagnosticato una chielite e non riesco a farla passare, mi danno delle creme al cortisone con antibiotici, smetto, dopo una settimana mi torna fuori, e su internet, ed è per questo che mi sono un pochino allarmato, ho letto che queste cose durano anche anni, perché forse derivano da una componente anche lì stressogena. Quindi volevo sapere se i professori mi potevano dare un consiglio su come trattarlo, se fare esami tipo allergologico o cose del genere, ecco. Chissà se Dino, professor Comazzi, avrebbe bisogno di un po' di coccole anche lui, un po' di massaggi. Ma su questo, intanto che lei ci pensa, chiedo al professor Gelmetti di dare una risposta da dermatologo illuminato. Ma se non ho capito male, la cheilite è bilaterale, cioè Dino, c'è ancora Dino? Tutto il percorso. Sì, è bilaterale. Bilaterale, insomma, bilaterale. Soprattutto da una parte, però. Sono taglietti all'angolo della bocca, giusto? Esatto, poi si gonfia la bocca, diventa rossa, è anche molto antiestetico. E per lavoro diciamo che la cheilite angolare è un problema che è piccolino dal punto di vista di estensione, ma molto fastidioso, perché ovviamente la bocca si usa, è un orifizio, eccetera. Una delle cose da verificare è la presenza di lesioni all'interno della bocca, che possano essere diciamo da promotere di quelle esterne, sì, e poi bisogna ovviamente escludere anche la presenza di un stato iniziale di diabete, perché se abbiamo un velo di zucchero a livello di una piega, questo velo di zucchero tende a stimolare la crescita di alcuni microrganismi che si trovano in bocca, tipo la candida, quindi la cosa si automantiene. Fatto questo, evidentemente, una volta che si è escluso questa causa, o perlomeno con causa, vanno fatte magari qualche indagine più approfondita, soprattutto dal punto di vista gastroenterologico. Professor Comazzi? Io dicevo che ci ho già pensato, a parte il fatto che il massaggio fa molto bene anche agli anziani che perdono il contatto col loro entourage e quindi il massaggio lo sostituisce egregiamente, ma ho pensato a proposito di carezze e alla figlia di questa signora che dice che si chiude in bagno e si distrugge il volto, no? Queste per me sono carezze sostituite con rabbia da queste lesioni. Le carezze carezze che non arrivano sono in questi casi che noi vagamente chiamiamo masochistici, in cui viene sostituita la mancanza con questa parte rabbiosa. E quindi il discorso prende un altro aspetto e un altro tipo di cura, perché va assolutamente aiutata questa povera ragazza. Sì, ecco, lei anche pensa nello stesso modo, visto che la cosa si ripete. Il giovane che parlava invece di queste lesioni delle labbra all'angolo della bocca è un disturbo che io vedo comparire frequentemente. Gelmetti ha già spiegato le possibili origini, ma anche questo tende a ripetersi, vede, sospendendo la cura il disturbo ritorna, perché c'è un interrogativo che va chiarito. E bisogna riprendersi un po' in mano la propria pelle, no? Certo. Con tutte le funzioni di cui la pelle è capace. Cioè, in che rapporto stiamo con lei? In che rapporto? Quando si dice mi trovo bene, sto bene nella mia pelle, sembra una cosa abbastanza... mi sento... però Gianfranco, da Salerno chiudiamo con lei. Sì, salve. Buongiorno a lei. Intanto, buongiorno. A carezze come stiamo? Abbastanza bene. Va bene, allora Gianfranco, ne dia tante e ne riceva. Questo è il mio augurio, sì. Ma la sua domanda... Allora, la mia domanda è che da circa un anno ho un problema sul viso, o meglio, mi sono usciti dei brufoli, tipo brufoli, o delle irritazioni alla pelle. Sono stato da un dermatologo per una visita e mi disse che probabilmente era rosacea. Però mi ha dato una cura con degli antibiotici e delle creme che ho fatto per un periodo, non vedendo nessun risultato. Lei interrotte, perché uno dice cosa le prendo a fare, vero Gianfranco? Sì. Perché poi noi sentiamo, andiamo dal medico, se quello ti piace lo facciamo, poi se non vediamo i risultati molliamola lì. E professor Gelmetti, si fa così, insomma abitualmente noi facciamo così. Abbiamo proprio 30 secondi per dare un'indicazione a Gianfranco e alle persone che si ritrovano un po' in questa condizione. Ma la rosacea ricade il discorso che abbiamo fatto con la signora di prima. La terapia esterna della rosacea purtroppo è pochissimo attiva, perché bisogna tenere presente che le creme, qualsiasi crema che ne mettiamo, penetra sì e no per il primo millimetro, quindi nel caso della rosacea le lesioni sono ben più spesse e quindi può essere un complemento di terapia, ma assolutamente è quasi sempre sufficiente. Ovviamente bisogna scoprire il bandolo della matassa, che spesse volte non è sulla cute ma è nell'apparato gastroenterico e o nell'apparato della nostra testa. Professor Gelmetti, grazie per essere stato con noi. Ricordo anche il titolo a cui di un suo libro, Il fuoco di Sant'Antonio, a cui dedicheremo proprio un'intera puntata. Professor Gelmetti, grazie. Grazie al professor Comazzi per essere intervenuto. Ci sentiamo presto. Noi ci sentiamo come sempre domani. Ricordate il Daily Lab e il nostro profilo Facebook. Scriveteci. Essere e benessere.